allora vai dritto. Un'altra radio Roma, the web radio that opens your mind. Un'altra radio Roma, the web radio that opens your mind. Brutto, ben brutto, ben brutto. Un'altra radio Roma, the web radio that opens your mind. Sotto al logo, sotto al logo, sotto al logo, sotto al logo, sotto al logo, sotto al logo, sotto al logo, sotto al logo, sotto al logo, sotto al logo. Sono 20 anni che si fa radio. E siamo tornati benissimo qui, siamo tornati tutti quanti in onda per la seconda parte di questa che è la trasmissione dell'Altra Radio Roma, che vi accompagnerà durante queste vacanze natalizie. Dove... Le vacanze natalizie ci interessa ben poco, ripetiamo che per preparare la festicciola del nuovo anno, quando faremo il botto? Con il Capodanno. Esatto. E vi stiamo passando tutti i pezzi che sono stati veramente da botto. Tranne Kempo, che ha mandato un pezzo che addirittura era da del 2012. Lui è riuscito a passare dei pezzi nella prima parte del 2012, ma quegli amici di Fuso Radio non l'ascolteranno perché noi li cancelleremo sapientemente, vero mister Brontolo? Un saluto agli amici di Fuso Radio, un abbraccione a tutti e vi auguriamo anche a voi un buon anno 2012, certo, anche certo. Perché noi il nostro Capodanno lo festeggiamo oggi. Quando voi lo ascolterete in diretta. Esatto, noi siamo qui che stiamo passando con voi questo Capodanno, che è poi alla fine di un anno, per immetterci in un nuovo anno, ma se come se realmente esistesse una porta, no? Ma secondo lei il Capodanno è la fine di un anno o il principio di un nuovo anno? Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Secondo me è sempre mezzo pieno. E quando è che è pieno? Il principio del nuovo principio, anno o la fine del... Principio, perché quello che è vecchio... E poi non dica stupidaggini, perché il suo di bicchiere è sempre vuoto. Sì, questo è vero, è proposito. Chi è che dovrebbe mesciare nei bicchieri? Quello che non sta facendo nulla. Come no, stava parlando fino a poco fa. Ma comunque, grazie, molto gentile lei. Dicevamo, siamo qui per raccontare quella che è stata l'esperienza del 2011, parlando sotto l'aspetto che noi mastichiamo meglio, ossia la musica Creative Commons. E in questa web radio, al di là che si sparge vini a destra e a manca e si mettono microfoni come se fosse il cellulare di casa, provi a parlare. Si sente secondo lei? No, non si sente, non si sente. Lei con la bocca piena, no, provi. È interessante il cellulare. No, però è interessante mentre lei sta discorrendo di noi che non si ascolta quel che dice. Il cellulare di casa. Eh sì, perché il cellulare è di casa. È di casa, se no certo. Che cellulare? E per strada di che? È cellulare di strada. Lei quanti cellulari ha? Io? Una a malapena. Io ne ho tre, uno per la strada, una per la casa e una per la campagna. La invidio quasi. Va bene, se ci lancia una traccia ci renderebbe tutti quanti molto più fantasiosi. Per iniziare questa puntata, questa trasmissione, vado con un pezzo veramente gagliardo, come direbbero a Milano. Con un pezzo, dicevo, di un gruppo che abbiamo scoperto nel 2011, l'abbiamo trovato, l'abbiamo in qualche modo sponsorizzato, presentato in più occasioni attraverso le nostre podcast dirette. Loro sono i Kevlar Project, che stanno preparando un nuovo album e nel 2012 verranno qui da noi per raccontarcelo attraverso un'intervista, attraverso un'altra intervista che riprenderà appunto a gennaio. Il brano che ci andiamo a ascoltare è del 2011. anzi, e per l'esattezza del 2010, e noi l'abbiamo scoperto nel 2011. Allora ricaschiamo un'altra volta lo stesso discorso. Gioco, lo so, lo so. E loro sono i Camera Project, e la traccia che vi vado a passare si intitola Divorare l'aria. Faccia a parole sue. A parole mie, divorare l'aria. Questa è un'altra Radio Roma, Radio Roma, Radio Roma, Radio Roma. Può essere letale. Divorare l'aria, divorare l'aria, divorare l'aria, divorare l'aria. E stare intrappolato in una bolla di sapone. Ma alle volte può essere letale. Respirare l'aria, respirare l'aria, respirare l'aria, respirare l'aria. Intrappolato in una bolla di sapone. Dolce ma alle volte può essere letale. Divorare l'aria, divorare l'aria, divorare l'aria, divorare l'aria. Se ti do un euro, tu mi dai un dollaro e 30. Sì. No, non è così. Il cambio è 0,69 e qualcosa. Di conseguenza con 100 euro le do 60. Cioè con 100 dollari le do 69 euro. E l'americano piange. Piange, occhio al bicchiere, pieno di vino. Sta dicendo un'altra cosa lui. Quindi niente, volevamo farvi entrare nel nostro discorso perché non sappiamo il cambio. Quindi se qualcuno ne sa più di noi, ci scriva e ce lo comunichi. Noi siamo qua e ascoltiamo. Assolutamente sì. E poi del cambio non ce ne frega nulla, visto che non ci laviamo da una settimana e portiamo gli stessi pedalini della scorsa settimana, del 2011. della scorsa diretta. Poi non dica stupidaggini, perché i suoi pedaline, come l'ha chiamati adesso, le ha messi sulle cuffie. Sì, l'ho appoggiati lì. Li ha appoggiati sulle cuffie e quindi non si sente più nulla. Anzi, si sente la puzza. Assolutamente sì. E che volevo dire? Questa traccia l'ha passata Mr. Gaspo. E come si intitola? Loro sono i Caval Project con il loro brano Divorare l'aria, e li stiamo aspettando con il nuovo lavoro che usciranno appunto nel 2012 e verranno a presentarlo qui a Artra Radio Roma, esclusivamente. Lo studio dell'Artra Radio Roma, esclusivamente qui da noi. Ma esatto. Dice una cosa, ma lei come lo chiamerebbe il pianeta che sta per entrare nel nostro sistema solare? Se non un altro pianeta Roma, un altro pianeta nel sistema solare, un altro pianeta web. Un altro pianeta. Ma secondo lei è assolutamente scientifico che quest'altro pianeta entrerà nel nostro sistema solare? O sono tutte quante menate come al solito, che andrà a scombussolare tutto quanto il sistema terrestre, quindi No, è praticamente già successo che questo pianeta entra ed esce, perché sta proprio nella parte più periferica del nostro sistema già solare. Già successo, ha visto lui, capito? Ma già è successo perché io mi abbuffo di Discovery Channel e di conseguenza so quasi tutto. Esatto, lui e Discovery Channel. Te ne ricordi la signorina Puglia? La voglia, ma tu mi sta pure l'arte ieri sera io. Ragazzi, riscopriscilo. Riscopriscilo su National Channel, un'altra Radio Roma. Io direi, no? Siamo in questa seconda parte della nostra trasmissione di Capodanno, fine anno, inizio anno. Non sia chiaro. Insomma, noi vogliamo festeggiare positivamente guardando il 2012, presentandovi tutta quella che è stata la ottima musica del 2011. Quindi, Mr. Campo, lei dal suo archivio cibernetico che si ritrova tra le mani, estragga dal suo cappello magico un bel brano. Su, forza. Tiralo fuori. Oh Campo, tiralo fuori. Allora, il cambiamento passa da dentro. Lo stesso vento che spazza via le certezze porta aria nuova in circolo e ci conduce in un mondo dove è possibile iniziare a scrivere la nostra storia, forse. Quinto mondo, loro sono di Cassino, Levante e Onami, i DJs. L'album è buio ora, vento. Ma quale vento? Ragazzi, mi sono sbagliato, è Nasty Girls. E magari tutto quello che l'ha detto. Lo sai perché? No, le spiego. L'ho preso da Nasty Girls. Però, la frase è attigua proprio al Nasty Girls. Adesso la scorterete. Sono contento che nelle prime due ore Mr. Campo non c'era. Era la parte che dovevo lavorare io. Questo tocca a Mr. Cocot. Ma nemmeno. Sta a continuare. Assa sto brano! Come on, nasty girl. Ooh, yeah. I'm a nasty girl, yeah. E anche oggi il sole è lo stesso riflesso, è il solito specchio che ti guarda distratto. Dormi poco e mangi meno di quanto dovresti. Scrivi racconti dove racconti dei tuoi difetti. Quando piangi sei sola, disegni il mondo in viola, perché quello in blu oggi ti ha deluso ancora. E gli occhi grandi, veri, distanti, e li cerchi di nero per dire al mondo che lo guardi. La tua ricerca naturale di una dimensione, in giro l'hanno ridipinta ribellione. Ma sei sicura che qualcosa cambierà, mentre affoghi negli anfibi la tua femminilità e poi scappa. Che il bianco e il nero sono lontani e colora le stagioni con le tue mani. Stringi le cuffie e mischi amore e follia, ma questa volta non lo sai che ti porto via. Nasty girl, copre il sole con le nuvole, disegni il mondo con le tempere di lacrime. Porta il vento dentro te perché voglio raccontare che ti porta con sé. Nasty girl, copre il sole con le nuvole, disegni il mondo con le tempere di lacrime. Porta il vento dentro te perché voglio raccontare che ti porta via con sé. La terra gira tu come se restassi a prendere i tuoi spazi in un groviglio di passi. Abituarsi alla sintassi degli animi, al cielo che rimane tra le foglie degli alberi. A vagare in questo vuoto siderale come va qua, tutto a puttane con la nausea che sale. Dimmi come si fa a vivere di qua, dei bordi che qualcuno ci dà. E poi vedere il sangue che colore che ha, ricordi l'odore di vernici tra i binari morti. Le canne, gli amici, i corpi che si stanno vicini sotto il freddo dei portici. Ma quando gli altri ritornano tornarono docili e i soliti discorsi diventarono utopici. Qualcuno andava avanti pure coi gomiti e nessuno accarezzava più i tuoi sogni. Tagliare i ponti e i tuoi capelli morbidi lasciano un vuoto, pensieri che diventano vortici. Vortici, vortici, lasciami solo pensieri che diventano vortici. Mastico, copri il sole con le nuvole, disegni il mondo con le tempere di lacrime. Porta il vento dentro te perché voglio raccontare che ti porta con sé. Mastico, copri il sole con le nuvole, disegni il mondo con le tempere di lacrime. Porta il vento dentro te perché voglio raccontare che ti porta via con sé. Mastico, I'm a nasty girl, yeah, yeah. I'm a nasty girl, nasty girl, yeah, yeah, yeah. Oh, I'm a nasty girl, nasty girl. È il vento che hai dentro, disegna i contorni. Mille giorni di pioggia, sono una lacrima ai tuoi occhi, so già cosa scriverai stasera, che è da troppo che aspetti questa nuova primavera. Copri il sole con le nuvole, le uniche che disegni con la forma della solitudine. Sguardo indietro con le mani in tasca, se guardi bene in faccia sei tu quella ragazza. Gioia e dolore nella stessa magia, le stesse mani, la stessa calligrafia. Credi ancora nella stessa bugia di chi te lo ha promesso, ma non ti ha portato via. Resti a fissare il cielo mentre rischiara, guardi il telefono, nessuno ti chiama. Prendi una pillola, ti mordi le labbra, decidi di giocare finché va, finché sballa. Petali di raso sulla pelle nuda, coca pura, un'auto con il pieno per la fuga. Visioni interiori, passioni che non fanno pensare che resta solo il male là fuori. Mastico, copri il sole con le nuvole, disegni il mondo con le tempere di lacrime. Porta il vento dentro te perché voglio raccontare che ti porta con sé. Mastico, copri il sole con le nuvole, disegni il mondo con le tempere di lacrime. Porta il vento dentro te perché voglio raccontare che ti porta via con sé. Se lui non ci dice quando terminano i brani, per noi è difficile sapere quando terminano questi brani. Eh sì, questi benedettissimi brani. Hip hop. Hips hops. Vabbè, ma io ho preparato un altro pezzo smanettato da Jean Mendoux. Jean Mendoux. Questa qua si intitola, questa traccia, Lover Songs. Di chi? The Glass Spider. 2011. L'album Resistance. 2011. Seeking some vision by my side. I'm gone at the day, and I'm sleepless in the night. A mystery in my life. I'm alone in the crowd. I'm alone all about, all about. La traccia finisce così, in questo modo, molto sintetica, molto concisa, ma che racconta molte cose, sempre sulla nostra poltrona, qui seduti a un'altra Radio Roma, in compagnia con Mr. Gasperino, Mr. Kempo e Mr. Brontolo, in attesa di Mr. Cogot. Oggi dovevamo... Sta giungendo e oggi dovevamo essere tutti e cinque, anche Mr. Renton, ma che ha avuto una defezione, un piccolo problema intestinale. No, non intestinale, ha avuto un problema natalizio che è paragonabile a un problema intestinale. Sì, una diarrea di soldi. Sì, ma poi in mezzo al traffico romano che non è il massimo. C'era pure lo sciopero oggi. Oggi c'era lo sciopero dei sindacati riuniti dopo millenni. Scusi, c'era lo sciopero il 19 dicembre per gli amici di Fuso Radio. Ah sì, sì, sì, perché oggi è 19 dicembre per gli amici di Fuso Radio. Sarà. Non capiscono a cosa ci stiamo riferendo al 19 dicembre, perché questa trasmissione è indifferita, nel senso che va successivamente al tempo precedente che sta trascorrendo in questo istante. Esattamente il 30 di dicembre. Ma che dici tu? Ma è antecedente o precedente? Che hai detto? Cioè, io ho visto Kempo che ha sgranato gli occhi e ha fatto ma che hai detto? Bellissimo. Che ha detto paura. Una cosa esatta, che questa trasmissione gli amici di Fuso Radio la sentiranno posticipata rispetto a quando è stata fatta. Quindi già sapranno quello. Quindi noi già sappiamo quello che è successo. Sì. Già sappiamo ciò che è accaduto. Sì, infatti. Loro lo ascoltano il 30 dicembre alle ore 18 e noi la sappiamo prima. Pensi che beh, domani sarà una manifestazione, quella che è avvenuta è stata una manifestazione come tante altre. Sì, sì, uno sciopero. Tanta che... gente che camminava insieme, esatto. E scherniva il nuovo governo. Con governo. Vabbè, ma con... il nuovo governo deve essere schernito, insomma, voglio dire. È bello quel personaggio, mi piace. Sì, sì. Ha toccato quello che sta a cannette e nonno. Va bene, detto ciò io andrei avanti con quella che è la musica del 2011 e andrei a pescare un... scritta nel 2020 nel 22 e andrei a pescare nella mia tracklist un gruppo che nel 2011 ha avuto parecchia risonanza qui su un'altra Radio Roma. I Maniscalco Maldestro, che non hanno fatto un album, mi dispiace. Allora, l'album è del settembre del 2011, per essere precisi. Loro sono di Bari e ci presentano un rock lirico, così amano definirlo. L'album si intitola Nova Etere EP, mentre il brano si intitola Nova Etere e loro sono i Nova Etere. Thank you. È arrivato anche il freddo, eh? Finalmente, qualcuno direbbe finalmente. Io devo essere sincero, sono veramente dispiaciuto. Già l'avevamo detto che era arrivato il freddo e veramente tu, lei è dispiaciuto perché lei è una un ragazzo, no? Una ragazza in ciabatta, e che la lingua mi si contorce perché penso alla ciabatta che è femminile, penso a lui che è maschile e mi viene la ragazza in ciabatto. Sì, e cercava di spiegare questo mister Brontolo, che l'abbiamo detto che fa freddo e l'abbiamo detto la puntata precedente. In questa puntata non l'avevamo ancora detto che faceva freddo. Ma lei immagini, invece di fare una puntata postuma, cioè lei la fa prima e poi viene postata successivamente, se lei riuscisse a fare una puntata venendo però dal futuro, un po', no, parlando di quello che accadrà, potrebbe essere interessante, no? Sì, però è sempre è troppo. Dai che c'è? Oh, mi ci hai fatto fare una puntata da Oltre il Confine tirando fuori uno che poi abbiamo scoperto a fine puntata che erano tutte bagianate. Era bellissimo, però. Cioè, sì, 3 ore a parlare di uno che non esisteva. Ancora è famoso, quello è. Aspetta, John Titov. Esatto. John Titov. Ma no, quella storia è fighissima. Sì. Ci sono ancora delle cose strane, tante sono state un po' fognate, però vabbè, dai. Vabbè, sì, sì. Resterà sempre una leggenda comunque. Certo. Uno che è venuto di Roma che è diventata una realtà. C'è stato, ma c'è stato, si è detto, ma non si è detto. Però si è visto, ma non si è visto. Si è visto, ma non si è visto. Nel senso che ha scritto, ma non l'ha scritto. E si è sentito, ma non si è sentito. Vuole aggiungere qualcosa lei, pronto? Io posso aggiungere qualsiasi cosa in qualunque momento lei voglia. Basta chiedere e io sono pronto. Non so di cosa stavate parlando perché io stavo visionando il mio computer pieno di LED e pieno di luci sbrilluccichine. Pronto qui come, per... come questo periodo di feste. Come questo periodo di feste. E vedo bene per esempio un pezzetto dei John Bassa che non so da dove l'ho scaricato e quando è stato prodotto. Scaricato. Ne prendo... Se no, scaricato lo so perché l'ho scaricato io tempo or sono. Però l'album è del 2024 anch'esso e questo pezzo è un pezzo, aspetti che stacco questo così almeno si sente meno casotto, e il pezzo è assolutamente preso a casaccio e lo passo così alla come casaccio. Viene Wedding Dragon EP Red Dub, beccatevi i due. Non andare, blocca in fondo. l'intenzione di capire a due passi dalla terra, a due passi in fondo al mare. Capacità di non sentire niente in cuffia. Io e voi? Io sento benissimo. Lei sente? Però adesso lo sento. Adesso sì, ok, perfetto. Ecco, per esempio la musica era alta, se uno non ha le cuffie non se ne accorge. Perfetto, questo gruppo l'aveva tirato fuori Mr. Brontolo del 2011 da Free Music Archive, vero? Aveva detto, no, non se lo ricorda più, ma Kaidon? Giambassa, mi sembra sì, Free Music Archive. E assolutamente sta arrivando Mr. Cocot, che lo lasciamo chiuso fuori dalla porta. Non lo facciamo entrare. Sì, perché non se lo metta. È importante che non entri, è non importante entri. Che attenda aspetta, i nostri via. Tempi e i tempi degli ascoltatori. Comunque questo pezzo appunto è del Giambassa, scaricato direttamente da Free Music Archive. E dicevo a Mr. Campo che non comprende una, un ciufolo, ma lo pensi lei. Siccome Mr. Campo, vi svelo l'arcano. Siccome Mr. Campo doveva preparare un brano e lanciare adesso, non l'ha preparato. A questo punto giro la manovella a Mr. Gasperino. La vostra soddisfazione è il nostro mio premio. Apro la porta, arriva Campo, arriva Gogo. E basta, adesso è verso il turno. Siccome non ho passato nemmeno un pezzo, vorrei passarne uno. Questo tizio si chiama Roberto Schiavone e ci presenta un brano prettamente natalizio per questo periodo e secondo me ascoltatelo e poi ci parliamo un po' sopra. Si intitola Notte Magica. Va bene, l'ascoltiamo. Thank you. per allietare queste feste che ci accompagnano alla fine dell'anno qui su Fuso Radio, venerdì 30, siamo tutti pronti per fare due auguri particolari. L'Arte Radio Roma in questo momento vuole fare due auguri particolari. Uno a una coppia di nostri amici che ha appena avuto un figlio, che dal nome Francesco, quindi salutiamo Francesco, un'altra Radio Roma saluta Francesco e... ciao Francesco, e soprattutto facciamo gli auguri a un futuro DJ che probabilmente siederà sui nostri sgabellini quando noi avremo il Parkinson. Un cocottino, un applauso a Cocottino. Cocottino per voi. Buonasera Mr. Cocott e benvenuto fra noi in questa serata stupenda che l'Arte Radio Roma ha allestito in due parti. So che ci ha ascoltato attentamente lei, perché ci scriveva. Sì, sì, vi ho anche insultato attentamente, attentamente. Però sono stato sempre preciso, coinciso e a tema. E ho messo no, i nomi. Non a caso, no, a caso, ho messo i nomi, ho messo i nomi perché io sono uno che uno mette preciso, i nomi. Uno preciso che non si dimentica dei nomi. Io non dimentico i nomi e non dico le cose sul loro, ma le dico in faccia per esatto. Dirle, non per non dirle. Esatto. E quando... benvenuti a tutti quanti. Io vi volevo augurare buon anno, perché noi non crediamo nel Natale, perché Babbo Natale non esiste, e soprattutto perché Babbo Natale non è mai nato. Non è mai nato, è vero. E c'è Mr. Campo che sta a litigare col bicchiere di vino. Io volevo insomma vedere che questa è una puntata speciale, perché ho visto che è una puntata che voi avete fatto in piedi. Grazie, è molto vero? Gentile. Non no, avevo no, usato no, le sedie. Vi vedo che ci pratica... siamo alzati perché è entrato lei in questo momento come segno di rispetto, come quando arriva il bambinello. E noi abbiamo visto il bambinello arrivare. Infatti abbiamo atteso lei per fare gli auguri ai due bambini, uno appena arrivato, nato il 16 dicembre, pensi? E Francesco. Ben arrivato Francesco. Ben arrivato Francesco e ben arrivato Mr. Cocott. Cocott, Mr. Cocottino anche. E anche Cocottino che vi porterà tanta musica Creative Commons su un'altra Radio Commons Roma Web, Web Radio Commons. E vi ricordo che abbiamo portato per voi gli adesivi. Perciò adesso chi ci telefona, noi gli spediamo adesso l'adesivo. Oppure ci scrive direttamente sulla nostra mail, l'altra radio, @live.it, noi gli spediremo a spese di campo un adesivo. Sì, accaduto certo, adesso. Chiaro, sì. col francobollo. Che dirvi se non essere visibilmente contenti di vedere qui Mr. Cocott, che sta allestendo la sua postazione per forgiarci della sua musica che ci allieterà questo finale di serata. Finale non proprio, perché quanto manca precisamente? Manca abbastanza. È giunto in tempo per allietare le nostre orecchie. Non riesce a collegare l'arnese elettromeccanico, ma piano piano ci riuscirà. Eppure ti vedo bene a fare radiocronista. Io infatti l'ho fatto nella mia vita passata, il radiocronista. Che radiocronevi? Radiocronevo tutto quello che avveniva, quello che capitava. Lei ha visto Mentana che è stato davanti a una porta chiusa ad aspettare che Monti uscisse per almeno 6 ore e mezza, è riuscito a non rimanere in silenzio neanche per un istante. Lei l'ha visto? Secondo me passerà alla storia questo evento giornalistico. Io sono completamente disinteressato. Io lo so che lei è disinteressata a tutto quanto quello che le corre intorno, perché lei non insegue, lei aspetta che piano piano da dietro le cose la trasportino in altri luoghi, in altri territori, in altre terre. Io sto cercando di prendere tempo, se lei mi desse una mano in qualche modo. Io stavo sinceramente ascoltando quello che lei diceva. Se è pronto, io la capisco, vengo io in suo aiuto, perché Mr. Campo lo vedo in difficoltà e che ormai è soltanto interessato al calcio, penso, da ieri. No, in realtà Mr. Cocott, prima che lei arrivasse, Mr. Sì. Campo aveva detto: oh, ragazzi, se mi imbambolo ditemelo. E se è imbambolato stava appoggiato alla colonna della Ma è giusto, è giusto, perché il Natale è così. Natale porta da stare imbambolati, a mangiare, a bere, a parlare, a chiacchierare, a giocare a carte dalla mattina alla sera. E infatti sono arrivato qui per dare una scossa a questa trasmissione, no, e renderla ancora più monotona. Ah, okay. Cioè io la voglio ammorbare, proprio la voglio tramortire con dei pezzi tipo musica classica. Sì, io ho portato dei pezzi del genere, lei li metta che io la seguirò. Io adesso invece voglio mettere un pezzo, un pezzo dei famosi Vetronova, che Mr. Bronto lo conosce. Sì. Che loro, in pratica Mr. Bronto ha cercato di contattarli e gli ha detto di mandare il loro disco a un'email che non esistiva. E loro ci hanno detto, noi cerchiamo di mandarvi l'email, qualcosa a quest'email, ma quest'email non esiste. Però loro mi hanno risposto su MySpace. Yes. E io sono stato molto contento del loro interessamento, anche perché loro sono un gruppo molto interessante. Molto. Che con la nostra trasmissione di altro genere e di musica psichedelica potrebbero entrarci. E dove sei pronto? Secondo me hanno delle sfumature psichedeliche non indifferenti. Potremmo fare una seconda puntata su la musica psichedelica. Già la prima potrebbe bastare, la prossima volta proporremo un altro genere, anche se mi ha aggradato molto quella puntata. Molto, mi ha aggradito. No, mi ha aggradato. Mi ha aggradito. E allora adesso, allora, sapendo che i Vetronova piacciono a noi, a voi, a un'altra Radio Roma, e sono free download, sono Creative Commons, no copyright, no CI, loro sono Vetronova, dall'album Madeleine Extend Play, la traccia Il Fantasioso. E loro vengono da Torino. Dico solo che questa traccia dura 9 minuti, ragazzi, perciò addormentate. E adesso per adesso vedo nuovo Fantasioso. dove stavamo, scusa? Ma quanto abbiamo chiacchierato? Ma che ci siamo detti fino adesso? Le spiego, è arrivato mister Cocotte. Gli abbiamo fatto auguri. Abbiamo fatto auguri, è passato un pezzo che durava 2 ore e mezza. Ah, ecco perché, ci siamo raccontati mezza vita in 30. Quanto dura mezz'ora sta canzone? 34 minuti. 34 ma... minuti, e pensi che è iniziato nel 2011 e finisce nel 2012. A proposito, infatti. No, questa è una cosa importantissima, e questa traccia è del 2011, a differenza di tutte le altre tracce che sono passate prima, di Mister Brontolo e di Mister Kemp, che sono del 1990, 92, 2001, 2002, comunque loro è una classifica molto più ampia, non è soltanto la classifica dell'anno, ma è la classifica degli ultimi 15 anni di Creative Commons. È una cosa più potente, più grande, assai. È vero, no? Questi erano i Vetronova con la traccia Il Fantasioso dall'album Madeleine, che voi potete scaricare. Ma lei lo sa che c'era un napoletano che aveva inventato una bibita? Sì. Che sì. Sto leggendo. Io questa la so perché io ascolto Nardra Radio Roma e esatto. Mister Gasperini. Gasperini. Gasperino. Vabbè, dai. Ci può stare, ci può stare. Senta, Mister Cocot, io farei così. Visto che è giunto in questo momento, sì? Lei è pronto eventualmente per lanciare un altro pezzo? Sì. Ok, lo passo io. E allora, per voi, per noi, ammazza com'è bella la mia per voce, loro. Ragazzi. Dalla 51 Beats Net Label, direttamente dalla 51 Beats Net Label, uscita 035, loro sono You Are Here, e questa è la traccia You Are Here, 51 Beats Net Label. Ah, ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. fine fai? Non lo so, a che stavamo pensando prima? Agli animali assassini, animali assassini. Animali, quale animale lei eliminerebbe per il 2012? Assassino. Io partirei dagli insetti. No, però la vespa in particolare mi mette il terrore. La vespa, lei eliminerebbe la vespa. Brontolo? No, io non riesco a capire perché Mr. Cocot aveva sollevato un problema di cui io mi ero preparato antecedentemente, che è quello degli animali assassini, aggressivi, assassini. E io ho aggiunto quale animale non mi ero preparato. No, ascolti, Mr. Cocot ha detto quale animale le crea una fobia. Questo quello che diceva una lui. Una fobia era questo, sì, che diceva Mr. Cocot. E quindi quale, io aggiungo, quale eliminerebbe per il 2012? No, la fobia, proprio qualcosa che mi fa schifo, che se me lo trovassi dentro il letto mentre dormo, è il serpente. Pensi, sotto la pianta del piede un bel serpente che si striscia. Sarà che non l'ho mai toccato? Lei che è esperto, Mr. Campo, mi dica, ha mai toccato un serpente? Toccatore di serpenti, avete mai toccato un serpente? Allora, il serpente è un animale affascinante. No, non mi dà fastidio, sinceramente. È affascinante. A me piace, non dispiace il serpente. Non è un animale che eliminerei. Non è un animale che eliminerei. Pronto, lo sta fuori praticamente. Sì, sì, sì, lo lascio perdere. Lei non lo deve ascoltare. Quando in queste condizioni lei lo ignori. Non avevo capito la metafora poi. Certo. E lei quale animale eliminerebbe, Mr. Cocot? Anche a me piace il serpente. Anche io adoro il serpente, il mio animale preferito, insieme all'aquila. All'aquila. E ucciderei come animale assassino i lupi. I lupi. Le spaventano i lupi. Ha una fobia per il lupo. Sì, per il lupo. Per il lupo Totti. Yes. Ha visto ieri, sì. È tornato. Vabbè, io eliminerei... Tagliare ponti, i tuoi capelli morbidi lasciano un vuoto, pensieri che diventano... Il politico è un animale? Stava parlando di animali. Allora non è un animale. Io sono bestia. Assassine. Ma noi ci riferiamo agli animali, giusto? Agli animali. Per una volta. Il leone. Il leone, sì, perché ho visto lei che smanetta su internet. Perché stronzo? No, perché ho visto su internet un documentario degli anni 70 di un americano che è andato a fare un safari con tutta la famiglia. Ha fatto, gli faccia la foto, è sceso dalla macchina. E i leoni se lo sono mangiato. Tutto quanto, cioè non si era ripreso. La macchinetta fotografica. Niente, un cazzo. Non l'hanno potuto aiutare. No, gli hanno acchiappato la gamba. Cioè, c'era il leone con la gamba in bocca. Cioè gli ha staccato la gamba. Gli ha staccato la gamba e questo è morto. È fantastico. E quindi mi sono lui rimasto... ha fatto le foto di se stesso mentre... No, lo hanno ripreso perché c'era uno che lo stava riprendendo. È tragico perché poi c'erano tutte le macchine, la gente, Madonna, impotente, tutti i pezzi di carne qua. Ma guarda, è una cosa con davanti, guarda, ai figli, capito? Io direi di passare un pezzo. Tu dici a tuo figlio, ti porta a far safari, sì, e le ore siamo... è uno spettacolo in più. Ma sai che quel safari hanno pagato molto di più. Secondo me sì. E comunque un'altra radio Roma, ricordiamo, Creative Commons, un'altra radio Roma, Creative Commons Web Radio, Mr. Cocot, Mr. Brontolo, Mr. Gasperino, Mr. Campo. E adesso per voi un'altra traccia e salutiamo i ragazzi di Fuso Radio che ci stanno ascoltando, ci supportano e ci supportano prima di tutti. I mangiatrici di leoni uccidono i leoni. The Scraps, yes. Lo sai o non lo sai, 2011 The Best, meglio di un'altra radio Roma. Lo sai, lo sai, lo sai che vivi in un'illusione di droghe a te, te, televisione, compra, vendi al prezzo giusto quando non ne hai il diritto, il diritto te lo crei con un valore, il denaro è la tua ossessione, ti serve per mangiare, ti serve per scopare, sei schiavo di un sistema e non puoi più scappare, lo sai che il mondo non è we'll lo sai che tanta gente muore e tu stai fermo lì a guardare. Nasci, scoppi, spendi e muori, non ti accorgi della pena. La pena è nel tuo cuore, non vivi abbastanza per renderti conto che ti manca sostanza. Praticamente una delle novità del 2011 è stata quella di fare una marea di jingle da parte di noi dell'Art Radio Roma, e uno degli ultimi dati era di quello che se ne parlava nella puntata scorsa, nella parte precedente, con Mr. Brontolo, che rimaneva così un po' stupefatto del fatto che lei avesse prodotto un jingles in così breve tempo su una trasmissione appena uscita. Però è passata una settimana da quell'evento. Mi permetta di chiedere a Mister Brontolo se ha avuto modo di ascoltare nel frattempo il jingle una settimana fa da lei scoperto. No, ancora non l'ho ascoltato. Mi piacerebbe molto che qualcuno lo passasse e io potessi così commuovermi di fronte adesso. Allora io direi, farei una cosa, farei noi dell'Altra Radio Roma, facciamo una sorpresa a Mister Bronto. Grazie. Che dal 2012 non farà più parte di questa radio. No, ne apre un'altra. Esatto, lei sì. Ne aprirà un'altra, sì. Attaccando adesivi sui televisori di qualcun altro. Sì, Radio Un'altra. Un'altra. Radio Un'altra, e mi presento da solo e poi chi mi ama mi segua. Se volete chiudere questa radio e passare alla sua, a Radio Un'altra, io vi accoglierò a braccia aperte. Radio Un'altra per voi, la lancio qui questa sera. Allora, prego. Tutti i lunedì sera in diretta, Radio Un'altra per voi. Adesso il jingle di un'altra radio. Scusi, però vorrei capire, lei si sta facendo pubblicità attraverso la nostra radio? Assolutamente sì. Poi ci paga. Noi le regaliamo. Scusi, la sua jingle. Radio è gratuita come la mia? Sì, però la pubblicità si paga. E non è nessuna pubblicità, pure l'altra è gratuita, non è a fine di lucro, io passo quel che voglio. Come gli artisti. Mica il mio partner, se lei. È pronto? È pronto? Farò un jingle. Lui dalla regia, lei chi è? Ecco. Lei dalla regia, io abbasso questo quando vuole. Lei ha attaccato pure il disturbatore. Può staccare il disturbatore un attimo. Mamma. Comunque, adesso racconta. benvenuti qui a Nartra Radio Roma con Mr. Bruntolo e Mr. Cocot, Nartro Genere parte Non mi abbatto, maledetto me, non mi abbatto, maledetto me, non mi abbatto, maledetto me, non mi abbatto, io continuo qui con un altro pezzettino. Che dire in questa serata pazzesca che ci possiamo permettere il lusso, noi e solo noi, di mandare musica psichedelica per 2 ore, ma non musica psichedelica normale, musica psichedelica che buonanotte da Mr. Cocot, un altro genere number one. È finita finalmente, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Buonanotte, Psichedelic Cost Fight Friends. Fight Friends. Mi dissocio. Ma mi associo per i saluti a tutti quanti. E se becchiamo alla prossima. Fantastico, oserei dire fantastico, molto psichedelico, molto ricercato e molto fuori dai schemi. Bravo Mr. Cocot. Bravo. Comunque Mr. Cocot, almeno la seconda volta che la sento, però non è vero. No, volevamo dire che come questo jingle, che è l'ultimo nato qui a Nartra Radio Roma, lo trovate su SoundCloud, come tutti gli altri 26 jingle dell'Altra Radio Roma, dal primo che era l'origine con Mr. Brontolo che ha aperto le porte con il suo jingle, e a seguire tutti gli altri. Se li volete andare ad ascoltare, nel 2012 ci sarà l'album dell'Altra Radio Roma jingle. Direi un avviso, un consiglio da Nartra Radio Roma, che è la vostra radio, di ascoltare attentamente i jingle fatti da Mr. Campo, specialmente gli ultimi 3, che sono fantastici. Io spero che lui si ricordi benissimo quali sono e come fanno. Io aggiungerei anche i podcast. Esatto, stavo dicendo questo, come i jingle, i podcast. E ultimamente anche le dirette. Bravo. Vedi, ci arriva da solo il ragazzo, sì, c'ha una recensione, c'ha una recensione, un podcast, un jingle, una diretta, e poi vuole aprirsi un blog da solo. Non so per quale motivo, però so nessuno, certo. No, ma vabbè, guardi, è importante in questa radio che ognuno apporti il proprio sostegno con i propri mezzi e le proprie capacità, e visto che le sue capacità sono ridotte ci accontentiamo, non si preoccupi. E sì, io passo il microfono, non so perché me l'hanno dato, no. Mi trovo qui per caso. Non passare il microfono. Sapete, quello che si trova su un treno e non sa dove sta andando, e prende e passa il microfono a Mr. Cocot. Mr. Cocot ci lancia. E adesso, direttamente da Giamendo.com, Panda Beer, l'album Space Pandemic, lo trovo su Giamendo, lo potete scaricare, ascoltare, diffondere e mangiare. Questa è Daily Chance su Nartra Radio Roma. Sono appena le 1:30 passare di un giorno qualunque di dicembre. perasaanmu yang telah kau curahkan padaku. Alza il volume, Mister Gasperino, che qui in Artra Radio Roma è ancora sveglia. I due deficienti di Mister Kemp e Mister Brontolo si stanno facendo le foto e sono la rovina della radio intera. Noi vi annunciamo adesso, dal 19 dicembre 2011 fino al 1 gennaio 2012 avrete noi quattro come DJ, VJ, BJ, CJ, ma dopo Capodanno Mister Kemp e Mister Brontolo saranno mandati via dalla radio. Si stanno facendo le foto come le sedicenni in calore americane. Mi fanno schifo e dal 2012 non saranno più parte di questa radio. Gennaio, Claudio col calamaio. Febbraio, Claudio un deficiente col notaio. Ragazzi, allora, io mi mando un'altra, poi Mister Gasperino, manda la tua traccia. Allora, qui abbiamo bisogno di Credit Commons. Paolo Pavan Quartet. Già l'abbiamo sentito. Diciamo una frase per il jingle. Per il jingle io direi una cosa importante, che è questo: un'altra radio Roma, la più grossa radio web. Nartra Radio Roma, la radio che ti manda su un altro pianeta. Nartra Radio Roma. Nartra Radio Roma. E devo dire qualcosa per intrattenere quest'attimo che presenterà un attimo fondamentale. Il jingle d'un'altra Nartra Radio Roma for you per il nuovo anno. Nartra Radio Roma, una radio a caso. Sempre, okay. Sempre dopo, capisce sempre dopo, mister Brontolo. Io passerei un pezzo, loro sono i Metropolitana e il brano si intitola Strana Sensazione. Strane sensazioni? Nartra Radio Roma. Roma Web Nartra Radio Creative Commons Creative Radio Nartra. Web Commons, Radio Commons Nartra Radio, oddio, per sarà Commons Nartra direi più Radio Si avevano già fermati, ragazzi. L'estate inizia già qua, ci stanno condannando a rogo qui. Chissà che vi sarete persi nel frattempo delle varie non so minchiate. Mister Campo minchiate il suo déjà vu minchiate, e se ci stanno ascoltandolo minchiate, sì. Minchiate. Tu da solo rovinasti. Assolutamente no, noi non ci troviamo. È il professore, è il professore, per favore, mister Brontolo. Questo déjà vu ha rovinato. Déjà vu. No, no. No, no, il déjà vu, il déjà vu. No, no, ma no, è tipico strumento, eh. E lo so, déjà vu. Io ci dormo insieme la notte col déjà vu. No, no, il déjà vu fa sempre parte della famiglia dei didgeridù. Sì, è più piccolo. E si suona con una mano. E la bocca? Anche, sì, anche. Con una mano sola, no, no, la bocca. Allora io penso che insomma possiamo mandare anche un bel pezzettino. Assolutamente. Sempre Credit Commons, perché Nartra Radio Roma lavora solo sulle Credit Commons. Solo. Solo. Solo quello. Adesso io vi mando un pezzo e poi vi raccontiamo tante cose che dovranno succedere a Nartra Radio. Radio Roma. Rodio. Rodio. Nartra Radio. Rodio. Ramo. Ramo. Ramo. Ramo. Ramo. Ramo. Ramo. Ramo.